Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Nella vita il tempo scorre inesorabile. Lo stile di vita di oggi influenza la possibilità di diventare genitori domani. E anche la nostra vita fertile tende ad esaurirsi. Possiamo vivere salvaguardando la nostra capacità di procreare, evitando un'alimentazione scorretta, fumo, alcol, agenti dopanti, droghe e malattie sessuali. Seguire una dieta corretta ed evitare i fattori di rischio aumenta la possibilità di fare figli. La fertilità è un bene comune. Prenditene cura. Certo è che le campagne ministeriali sono dei successoni. Oh, ma vi rendete conto? Oggi sono l'unico a parlare del fatto che domani è il Fertility Day. Non ho visto una riga sui giornali, non ho visto uno spot. Quindi domani c'è o non c'è il Fertility Day? C'è stata una campagna ministeriale che ha fatto molto parlare per la sua ridicolaggine. Era una campagna che proclamava che domani sarebbe stato il giorno della fertilità a suono di pedalini di lana fatti all'uncinetto di bambini, di coppie copulanti con in mezzo uno smile felice, di sigarette che si ammosciano fra due dita perché l'uomo che fuma naturalmente non procrea. L'intento era buono, era dire: italiani, non vi state sviluppando in una maniera giusta, è ora che fate i figli. Però sai, si può dire a una persona: fai figli, così digli che bello fare i figli, fargli vedere i pedalini, quando i figli non si fanno perché ci sono un sacco di problemi, si sa. Comunque, se non entro in merito all'infelice campagna che è stata già bella e seppellita, ma seppellita al punto tale che oggi, che è il 21 settembre, non sappiamo se domani sia o non sia il Fertility Day. Diamo per scontato che domani la data rimanga, che sia una data di quelle che sono state scritte con lettere di fuoco nei calendari di pietra che raccontano i momenti epici dell'umanità. Quindi domani è il Fertility Day. Ci sarà stato pur qualcuno che l'ha presa sul serio, che si sta preparando. Ci domandiamo perché poi domani il Fertility Day. Ci siamo risposti anche a questo. Oggi è il 21 settembre, prima giornata d'autunno. Cos'è l'autunno? L'autunno è il periodo in cui cadono le foglie, ma in cui gli amori estivi, gli amori che hanno avuto modo di forgiarsi sotto il sole della calura estiva e quindi o spappolarsi, infradicirsi e morire, oggi sono morti. Tutti gli amori passati oggi non esistono più, quindi ci sarà un sacco di gente single pronta a dire: domani benissimo, ricominciamo da capo, che ci importa l'amore, domani facciamo figli. E gli amori si sono consolidati, invece quelli che si sono consolidati con l'estate, passata la prova dell'estate, oggi è il momento di investire sul futuro, quindi facciamo figli. Quindi c'è stata una scrematura estiva e inizia la farcitura autunnale. Come farcite domani sera? Diciamolo chiaro, perché la domanda è questa: come vi state preparando? Diamo per scontato che siamo tutti entusiasti, siamo stati trascinati in questa campagna ministeriale e domani inizia per noi il Fertility Day. Se inizia domani, ci si preparerà da oggi. Quindi c'è una serie di circostanze da mettere in atto. Cosa fate? Avete curato particolarmente l'igiene personale? Siete uomini, cioè vi siete fatti finalmente una lavatina nelle parti basse? Voi donne siete già andate a farvi le deforestazioni d'uso? Vi siete già preparate? Dal punto di vista logistico, avete preparato il viaggettino? L'alberghettino nella città romantica? Avete messo le lenzuola di seta a casa vostra? Avete già dei figli? Volete strafare? Avete già detto ai nonni: ce li tieni per una serata? Se siete proprio privi di materia prima, che state facendo? State inseguendo nei siti di incontri persone dicendo: guarda, domani sicuramente te la do, te lo do naturalmente, perché domani è il Fertility Day, lo facciamo per dare i figli a Dio, non per piacer mio, quindi mettiamoci assieme. Oppure siete più analogici, state facendo il giro dei colleghi, le colleghe d'ufficio, state convocando l'aperitivo disperato con le amiche, stasera forse porta il tuo fidanzato, quelle più fortunate. C'ha un amico magari single, ma anche se non è single, che secondo te è capace di ingravidarmi? Oppure al contrario, c'hai un'amica che magari ha l'orologio biologico che sta per scadere e io sono pronto? Beh, insomma, tutto questo non per lussuria, non per piacere, non per concupiscenza, non per dissoluzione, ma soltanto per ottemperare la campagna ministeriale. Mi dite esattamente come vi state preparando per il Fertility Day, che è domani, anche se ancora nessuno ce l'ha detto con certezza. 800 24 00 24, a tra poco. Melog, cronache meridiane. Si chiama Fertility Day. Bello. Non del giorno della fertilità. Cioè sì. Ma che cosa succede? Che si va in piazza e si bruciano i preservativi? Come si faceva una volta con i reggiseni. Ma c'è un ticchettio, un conto alla rovescia. Non aspettare tanto. sarà tuo grande vanto. La madre attempata, immagine poco felice se non avrai un bambino. Non sarai mai realizzata e datti una mossa, non aspettare che arrivi la cicogna. La bellezza non ha età, ma le tue ovaie sì, lo vuoi. Chissà perché non hanno preso come testimonial Giulia Toto, questa ragazza che su YouTube ha fatto questa bellissima canzone, l'abbiamo scoperta questa mattina, ma sembra l'inno perfetto per il Fertility Day. No, non è così, è mette scritto su YouTube, un'altra volta non lo dite con più esattezza. Comunque è una che canta questa canzone sul Fertility Day, è una cosa fantastica e quindi dà l'idea di quella deve essere la campagna. Ma voi cosa state facendo? Come vi state organizzando? Avete pensato che possa essere in pratica questo Fertility Day? Perché se no non si sa esattamente come bisogna comportarsi. Vogliamo delle cognizioni pratiche, ammesso e non concesso. Giochiamo sul paradosso che ci piace tanto, visto che è una cosa che finora è stata soltanto da ridere. Foste stati voi gli organizzatori del rullino di marcia del Fertility Day, cosa avreste fatto? Cosa avreste organizzato? Ma ci sono paesi civilissimi, mi sembra la Svezia, che regalano degli weekend alle giovani coppie, con poi premi, incentivi se quando tornano realmente hanno concepito, se no troppo facile, la gente va in vacanza, si fa un giretto e via dicendo. No, bisogna portare la provetta del test di gravidanza con il trattino rosso e vuol dire che allora è funzionato e si aprono improvvisamente le porte dei privilegi. Da noi tutto questo, ci dicono solo dovete fare figli. Perché? Perché lo dice Adinolfi, lo dice Padre Pio, non lo so chi lo dica, comunque bisogna fare figli. Ammesso che questa cosa ci sta bene, siamo tutti d'accordo, cosa fate? Francesco, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Nicoletti, complimenti per la trasmissione. No, siamo serie, non voglio licenziosità e cose scurrili. Deve seriamente dire, se dovesse oggi lei pensare al Fertility Day, cosa farebbe? Beh, cosa farei? Guardi, forse come il Giappone, partirei da Piazza dei 500 fino davanti al Parlamento con, non so, queste membre maschili portate sulle spalle per, diciamo, inneggiare a questo dei feticci fallici in segno di fertilità, come fanno in Giappone. In segno di fertilità, o se no dobbiamo attendere 9 mesi come Woodstock, dove c'è stato un ampio, proprio un boom demografico, e vedremo così se il Fertility Day ha dato i suoi frutti. Però lei ha detto due cose non sbagliate, pensando magari di fare una battuta. Allora, la prima cosa, ricorrere a degli idoli scaramantici, perché? Che c'è di strano? Ci sono un'infinità di sacre icone dove la gente va a chiedere la grazia di fare un figlio. La gente va a Medjugorje, la gente, adesso non so esattamente quando sono i santi in cui ci sono, addirittura un santo ci deve sedere su una pietra per rimanere incinta, non so bene. Comunque fa molto parte anche dell'afflato emotivo di chi vuole avere un figlio rivolgersi alle forze soprannaturali. È pieno il mondo di stregoni, stregonesse, fattucchieri che fanno grandi rituali per avere figli, e questo ci sta. Quindi la seconda cosa che ha detto, organizzare un grande concerto, sì è vero, un grande evento pubblico era molto meglio. Facciamo un grande concerto in un grande prato, in una villa borghese, un grande concerto per 3 notti, musica, si passava un sacco di vino, un sacco di liquori, un sacco di cose, e magari qualcuno in quel caso otteneva. Quindi mi sembra giusto il suo consiglio. 800240024. Non volendo essere solo in questa valutazione, non volendo dare una lettura fortemente, radicalmente, vigliaccamente maschilista, come sarebbe, ahimè, la mia fallace natura portata a fare, chiamo un'amica. Marianna Aprile, buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti. Allora, Marianna Aprile qua in quanto testimonial del genere femminile, la prima perché devo un pochino scavare ed entrare nel merito. Marianna Aprile è una valente giornalista italiana, una di quelle che stimo di più, scrive sul settimanale Oggi, che non a caso mi sembra che l'ultima copertina cos'è? Sulla Cuccarini che fa i figli, qualcosa del genere? Sì, a 51 anni dice di essere ancora in grado di procreare e di volerlo fare. Soprattutto mi parla del Fertility Day, neanche a farlo apposta. Ah, l'hai intervistata? Quindi... Tu l'hai intervistata? Sì. Quindi la più amata degli italiani dice lei farà il Fertility Day. No, in realtà lei, vabbè, lei l'ha fatto per 30 anni, effettivamente, ha 4 figli. E perché si rilancia si proprio oggi? Non può veramente imputare nulla. Però c'è no, un senso. Un discorso, devo dire, che mi trova molto d'accordo. Cioè dice, nulla in contrario verso una sensibilizzazione sul calo delle nascite, perché è un dato oggettivo e anche preoccupante. Però sicuramente la soluzione non è una giornata di sensibilizzazione, ma sono politiche concrete di sostegno alla famiglia, alla natalità. Campagna della Lorenzina, abbiamo detto il fatto che lo dica la Cuccarini, non solo come dire madre di quattro figli e aspirante madre di un quinto, ma diciamo come dire ha questo personaggio molto molto legato al nazional popolare, al no, è una, lei molto è religiosa, molto diciamo è una figlia giuseppina di Pippo Baudo, cioè è stata concepita dallo Spirito Santo della TV italiana, e Pippo Baudo è stato il padre putativo, poi non so chi sia quello vero, ma è così, è lei è nata proprio per essere un'icona lievemente sensuale, piacevole, accattivante, brava ragazza, perché piace agli italiani, è un prodotto da laboratorio, quindi va bene che lo dica lei. Che dica fate figli ci può stare, che dica non basta far figli, ma bisogna anche trovare il modo questa, di la seconda parte, era più mantenerli ed essere aiutati nel mantenerli, mi ha piacevolmente colpita. E adesso arriviamo a te, Mariana. Secondo te, quante persone l'hanno presa sul serio questa campagna, che poi è abortita per paradosso dopo mezza giornata, perché l'abbiamo tutti presa per il culo in maniera terribile e nessuno ha più pensato che fosse vera? Tanto che ancora, non so se tu hai certezza o hai elementi più certi di me, ma domani è o non è il Fertility Day? Domani è il Fertility Day, domani in quattro città italiane ci saranno delle tavole rotonde a tema coordinate dal Ministero, quindi no, è rimasto. Ma devono diciamo procreare sulla tavola rotonda, perché non ha un senso pratico altrimenti. No, guarda, ti rassicuro tutti, non devono neanche spiegare come si fa in quelle tavole rotonde. Beh, cioè, diciamo che la campagna cercava di spiegarlo in maniera un po' strana, perché si vedevano una coppia fotografata con i piedi, la donna si immaginava stesse sotto ma a gambe strette, quindi non è la maniera migliore forse, o più facile. Sparare su quella campagna ormai, siccome ci ha messo tutti d'accordo sul fatto che fosse sbagliata, è sparare sulla Croce Rossa. Quello che in realtà rimane di tutto questo, o dovrebbe rimanere di tutto questo battage, è la sensibilizzazione sostanzialmente su due fronti. Uno, ahimè, che non dipende da noi, che è quello appunto degli interventi a favore del welfare. Cioè, io credo che a tutti noi piacerebbe, io sono una quarantenne senza figli. C'è l'orologio biologico, è chiaro. Credo che sia naturale avere ognuno decide no, che priorità dare all'orologio biologico, e sicuramente quella di dar figli alla patria potrebbe non essere sulla top 10 delle priorità per cui fare. Vabbè, ma questo è lecito, è un po' difficile trasformare questo in una sorta di input generale per tutti, è talmente difficile, talmente impalpabile. No, l'errore fondamentale che secondo me ha fatto quella campagna è stato oscurare completamente un messaggio che invece, al di là del fatto che si facciano figli o meno, che rimane una scelta individuale e su cui insomma i ministeri farebbero bene a non mettere becco, però quella campagna aveva di buono tutta una serie di temi su cui invece i giovani e non solo i giovani andrebbero sensibilizzati, che sono banalmente quello della cura del corpo. Sì, cioè, però non era così chiaro. Dovevano dire, ragazzetti, andate come andate dal dentista, anche da l'urologo in tempo. Però l'hanno voluto mettere un po' sul biologico. Ferma un attimo, 800 24 00 24. Vorrei che anche signore mi chiamino. Stanno chiamando soltanto uomini che vogliono ironizzare sul fatto che lo sono disponibili. Mi stanno scrivendo lettere, mandatele da me, sono in seminetor, ho 7 figli, figuriamoci, ci sarà la fila davanti a Lucio da Milazzo che mi scrive sono in seminetor, mandateli da me. Stefano, buongiorno. Stefano. Pronto, buongiorno, sono sì. Io? Sì, certo, lei Stefano. Sì, no, io volevo semplicemente sottolineare una contraddizione che mi pare che ci sia in questo momento, nel senso il Fertility Day sembra un giorno in cui bisogna, cioè per promuovere una sorta di educazione sessuale, appunto, la cura del corpo. Diciamo l'uso della sessualità finalizzato alla procreazione, come dice un particolare tipo di etica. Sono gli stessi? I promotori sono gli stessi, varia di Nolfi, sono quelli del comitato del Family Day. Sì, ma non tanto, guardi, se vogliamo essere precisi, è una campagna ministeriale, poi se si sono accodati è un altro. Si sono accodati, eccetera, però sono gli stessi che poi ci dicono, non so, che a masturbarsi si diventa ciechi o finiamo all'inferno, eccetera, e che non vogliono l'educazione sessuale nelle scuole perché c'è la paura del gender, eccetera. Lo dicono che è brutto fare quelle cose da soli, perché dicono, secondo quello che è il precetto, poi non va disperso ciò che deve essere usato per procreare. Sì, però medicalmente, dal punto di vista sanitario, la masturbazione non è una cosa brutta, sì, e quindi se la fertilità è una cosa oggettivo, che deve essere la cura del corpo, la masturbazione nell'uomo ad esempio fa sì anche che l'apparato genitale maschile si conservi e funzioni molto bene. Sì, è come andare da un personal trainer. Sì. Se l'educazione sessuale deve essere una cosa positiva, ma deve essere al 100%, se no insegniamo soltanto che bisogna fare figli e che, ma come, dove, quando, perché, come educarli, qual è il senso della coppia, dell'amore, dei sentimenti. I sentimenti sono importanti. Lei dice una cosa sensata, dice una cosa sensata. Allora, diciamo, certo, lo stesso fronte ideologico che sta facendo folli e disinformanti battaglie sul cosiddetto il gender nelle scuole, che una cosa non esiste, hanno messo il terrore nelle mamme che possano mandare un bambino a scuola e gli torni una bambina e cose del genere, sono quelli che oggi vogliono fare Fertility Day, che ci sta bene, però dovrebbe nascere a monte una campagna che spiega sin dall'inizio cosa sia la sessualità, quali sono le possibili sfumature della sessualità, e tra queste tante anche quella per cui noi esseri animali soprattutto nasciamo, cioè quella di riprodurci. Ci fermiamo un istante, poi abbiamo qualcuno che veramente sta organizzando il Fertility Day nel senso della parola più ludico, cioè organizzare delle situazioni piacevoli per procreare. Ma voi non mi date una risposta, come vi state preparando? Mi si dà solo risposte ideologiche, valutazioni, letture, tutti opinionisti. C'è qualcuno di voi che veramente si è preparato domani per celebrare, festeggiare, commemorare questa festa del Fertility Day? A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Io avevo ottime intenzioni di rendere un servizio a uomini e donne che domani festeggeranno il Fertility Day per confrontarsi su quelle che sono le maniere migliori per affrontare praticamente questo evento. Perché non può essere tutto il paese fatto di persone ciniche, distruttive, infami, che prendono in giro la campagna. Qualcuno la può anche averla presa sul serio. Ha guardato negli occhi la persona a cui vuole bene, con cui ha un rapporto, con cui ha una relazione, o anche semplicemente l'amico, l'amica più affezionato, ha detto: ma vogliamo fare un figlio? E domani ci organizziamo. Se proprio si vuole, la processione si fa il giorno del santo patrono, a messa ci si va, le feste comandate. Se è il Fertility Day, la gente deve provare la propria fertilità quel giorno lì, mica un altro giorno. E quindi è domani il giorno. Laura, buongiorno. Buongiorno, io devo dire la verità, sono veramente stufa, stanca, annoiata di questo tipo di battaglie per la fertilità. Ma è un mondo che arriva a 10 miliardi fra 20-30 anni, secondo i dati ONU. Secondo voi c'è bisogno di farne degli altri di esseri viventi, umani, sulla faccia della Terra? Ma le medaglie bisogna darle a chi non li fa, le battaglie bisognerebbe fare per la riduzione del numero, non per l'aumento del numero. Ma la riduzione del numero che vuol dire? Cinesi, non ha importanza, intanto sulla Terra è talmente piccola che, voglio dire, non cambia. Quindi lei ha un atteggiamento cinico e distruttivo verso il Fertility Day? No, ho 60 anni, non ho fatto figli e ne sono lieta. Me lo dice con un senso di rabbia, non bisogna essere rabbiosi, no, è la sua scelta. Sono ben contenta, non ho nessun impianto e credo che della mia generazione siano parecchie le persone che hanno questo tipo di mentalità. Però vuol dare la possibilità e la libertà, se qualcuno vuol fare i figli, di se lo faccia, però che non si continui a dire che c'è bisogno, che ci pagano le pensioni, a parte che io non ho la pensione e non sono in pensione, ma questo non ha nessuna importanza. Cioè, sono battaglie ridicole, battaglie che non hanno alcun senso. Negli anni 70 si parlava di demografia, se ne parlava in maniera intelligente, ora sembra di essere tornati a facciamo figli per la patria. In effetti la sovrappopolazione è un dato che però le persone dicono: non vogliamo un'Italia fatta di vecchi. Evidentemente però non vanno nelle nostre scuole elementari medie, vedesso quanti ce ne stanno di bambini di tutti i tipi, di tutti i colori, come se quelli non esistessero più. Sentiamo Elena Grassi. Elena Grassi, buongiorno. Buongiorno. Allora, Elena Grassi, al momento, io razzolando, cercando, fa parte dell'unica organizzazione che seriamente ha preso l'idea del Fertility Day e seriamente si è organizzata nella direzione che sto dicendo io. È la responsabile hotel per l'Italia, lastminute.com, che è un portale di viaggio e tempo libero. Io il giorno dopo dell'esplodere della polemica sul Fertility Day, ho visto voi che avete lanciato un'idea fantastica, bravi, un'idea di marketing favolosa, il Fertility Night. Avete messo una serie di location fighette, Venezia, i posti belli, diciamo, se volete fare appunto i figli vi diciamo come. Però adesso mi deve dire sinceramente com'è andata la campagna, coppie hanno aderito, vanno preso sul serio? Assolutamente sì, ai nostri clienti il prodotto top secret, che sono gli hotel esclusivi ad un prezzo scontatissimo che abbiamo proposto per la Fertility Night, appunto domani notte, poi insomma con continuità lo offriamo 365 giorni l'anno, ai nostri clienti, soprattutto alle coppie dei nostri clienti, sono piaciuti molto, location come dicevi tu esclusive tra Venezia, Firenze, Roma e Milano, ma ne abbiamo anche molti anche all'estero. Tu dicevi noi l'abbiamo affrontata seriamente, in realtà volevamo assolutamente in chiave ironica. Però questo non mi domanda, allora le location romantiche servono, la coppia certo. In viaggio di nozze, la coppia dal matrimonio stanco, la coppia clandestina, dice dobbiamo fare la botta di vita, andiamo in un bellissimo albergo dove ci trattano bene, abbiamo riservatezza e tutto. Qua la chiave è diversa però, non vai per una notte di passione, vai per procreare. La differenza si è vista con questo nuovo messaggio. Quella che mi interessa veramente capire il dato, almeno che viene fuori dalla vostra empirica valutazione di una campagna. Ma ti devo dire, la nostra premessa era ci sganciamo da quello che i nostri clienti vogliono a livello personale e gli offriamo un'occasione, una cornice, un'opportunità. Devo dire che la chiave è stata colta perché il riscontro l'abbiamo avuto in maniera positiva. Dirti poi ovviamente quali possano essere le scelte dei nostri utenti, per il momento non lo sappiamo, diciamo ancora e non avremo modo di riscontrarlo. Nell'intimo sacello della stanza che voi darete non è che andate a verificare se mettono il preservativo o lei prende la pillola. La privacy prima di tutto. Però ci avete provato. Però siete gli unici che ci hanno provato. Io mi sarei aspettato venditori di biancheria, organizzatori di tour, niente, non ha portato niente cavalcare a nessuno. L'onda l'avete cavalcata soltanto voi, quindi onore al merito. Ci avete provato. Se qualcuno grazie. Comunque nel vostro pacchetto una volta si trova a Venezia con lo champagne, con la stanza, con le coperte di seta, con tutti gli incensi e le mille millanta delizie d'amore, lo fa per fare i figli e avrete ottenuto in parte uno scopo rispetto alla campagna. Giacomo, buongiorno. Buongiorno, allora io ho 25 anni, ho una compagna da 6 anni ormai e quindi io sarei il target ideale di questa campagna. Assolutamente, siete voi. Quanti anni ha la tua compagna? 26. Quindi lei comincerà a darti di gomito, ogni tanto dice guarda che carini quei bambini, guarda che bello. Esattamente, quindi per noi il Fertility Day sarà l'abstinence day assolutamente, perché sarebbe una tragedia immane ritrovarsi adesso con un bambino. Però perché... Giacomo, tu devi essere sincero, allora, questo è il tuo punto di vista, ma se io avessi adesso diciamo a disposizione la tua fidanzata e dicessi scusa è lui che fa resistenza, te a 26 anni è il momento giusto, vi volete bene, state insieme da 6 anni, saresti d'accordo di impegnare seriamente questa giornata per tentare di fare un figlio? Lei direbbe ma sì, a me piacerebbe, lui che non vuole, è così. Beh, oddio, lei è lavoratrice precaria e io sono ancora uno studente, quindi anche volendo cosa si può fare? Le politiche, sembra di dire una cosa banale, ma quando tutti quanti dicono che le politiche per fare un figlio per noi giovani non ci sono, non voglio minimizzare, però caro, ti posso dire, conosco lavavetri che vengono qua in Italia e fanno un figlio ogni 9 mesi e non si pongono il problema e poi vanno tutti a scuola, funziona tutto, è fino a un certo punto di vista giusto, ma se uno volesse fare un figlio, credimi, non credo che vostro figlio morirebbe mai di fame, tranquillo, alla fine il figlio lo potresti fare, che vuoi, è un figlio, giustamente una qualità e un'aspettativa di vita pari a quella che tu pensi che possa avere, quindi da avere tutto quello che tu hai avuto, pensi possa avere un figlio. Se oggi la tua fidanzata rimanesse incinta casualmente, dice voglio tenermi questo figlio, non è che finirebbe in un cassonetto, sta tranquillo, vivrebbe, sopravviverebbe, lo dice uno che figurati è contrario a ogni istigazione a procreare coatta, però è così, è anche così. Clotilde, buongiorno. Clotilde. Buongiorno. Eccola qua. Eccomi. No, io sono solo arrabbiata perché vedo che stanno buttando via i soldi in cose inutili. Io ho fatto l'assessore nel mio comune per i servizi sociali per i 5 anni e la gente non ha neanche i soldi per andare a fare le analisi. Cioè, io voglio dire... Dov'era questo comune? Vicino a Bergamo. Carrico. Ma non mi dire che vicino a Bergamo c'è una situazione di degrado sociale, è una città fantastica, una provincia che non mi sembra che stiano proprio male, che non possono fare un figlio perché non se lo possono permettere. Capirei da altre parti. Eppure è così. E poi magari anche come amministratore tu cerchi di dare dei servizi ai cittadini, per esempio, le faccio un esempio. Abbiamo fatto un referendum nella nostra scuola media per poter fare dalle 8 alle 13 tutti i 6 giorni della settimana. Io avrei fornito come comune il pomeriggio e poi dopo il dopo scuola fino alla fine dell'orario di lavoro, fino alle 18:30, 19 se era necessario. È stato rifiutato perché dovevano andare al supermercato. Allora, di che cosa stiamo parlando? Facciamo i figli e poi dopo che cosa ne facciamo? Non abbiamo i servizi, a parte che la gente non li vuole, e comunque i ragazzi giovani li stiamo mandando tutti all'estero a lavorare perché non ci sono posti di lavoro. Però Clotilde, guardi, io lo dico andando contro a quello che è il mio principio di dissolutezza da suggerire al mondo. In effetti queste cose ce le diciamo anche fra di noi, abbiamo fatto noi una settimana fa una trasmissione sulla povertà, mi creda, se proprio uno avesse desiderio e voglia avere un figlio, dice voglio fare un figlio, ripeto, in Italia difficilmente un figlio morirebbe di fame, non avrebbe chance per crescere, per studiare, per fare una vita, comunque arrivare agli strumenti per giocarsi la propria vita, questo lo credo fortemente e non ho nessuna affinità con i family day e con cose del genere, però dico, più ci diciamo questa cosa che i figli non si possono fare perché non possiamo così e meno ne avremmo. Però non è questa la strada. Se viviamo bene così, viviamo bene così. Mica detto che è obbligo avere un figlio. Un figlio è un peso fortissimo che dura tutta la vita. Uno dice voglio fare una vita serena, mi gioco la mia vita, non faccio un figlio. Ma è libero di farlo. Biagio, aspetta un attimo. Devo interrompermi un secondo e poi riprendiamo la trasmissione. Aspetta un secondo. Melog. Cronache meridiane. 800240024, vorrei soltanto domandare al mio pubblico se ha preso coscienza o consapevolezza o contezza o ha fatto qualcosa di fronte al fatto che domani sarà il Fertility Day. E è un paradosso, perché sono nato veramente per fare questa trasmissione come una trasmissione leggera, ilare, divertente, volevo un po' scherzarci sopra, come mi scrive un ascoltatore, vergogna, invece di affrontare l'argomento sui maggiori diritti della donna che lavora, affronta il tema per ridere, si vergogni, sì, volevo ridere, Ulisse, volevo ridere su questa cosa, mi sembra tutta una cosa da ridere, che si facciano campagne per dire fate figli, quindi ci volevo ridere, ma in realtà mi trovo, questo è il paradosso, a fare il moralizzatore, sono io che rispondo agli ascoltatori, dicono raccontatemi scuse, se volete fare i figli fateli, non mi dite non li fate perché dovete andare al lavoro e via dicendo, tutti noi abbiamo fatto i figli dovendo lavorare, non voglio dire io l'ho fatti che ancora ero precario i figli quindi non è che mi ponevo il problema, ero già 40 anni, capito, mi sono smazzato figli e bambini per tutti i sabati e domeniche della mia vita finché non sono diventati maggiorenni, per qualcosa ancora me li smazzo, quindi non facciamo figli e vogliamo vivere la nostra vita da ragazzi single, chiacchieriamo, orologio biologico, sì, ma gli aperitivi con le amiche, le vacanzine con le amiche, i fine settimana elettrizzanti con gli amici, te li scordi quando c'è un figlio attaccato addosso, devi pulirgli il culo per almeno 6-7 mesi, poi per il resto del tempo ce l'hai sempre vicino, non fai più la frenetica vita che fai adesso, questo lo voglio dire, poi ognuno faccia quello che vuole. Biagio, buongiorno, mi avevo informato con Biagio. Ciao Gianluca, ecco. Ascolta, io ho 5 figli. È bravo, tu l'hai fatto il Fertility Day. Il mio dovere l'ho fatto, oh. Voglio dire, ormai sono grandi, i due sono ancora piccoli e a oggi devo ancora pagarmi la mensa scolastica. Solo per dirti, due numerini, se io avessi fatto 5 figli in Francia mi avrebbero dato circa 2.000 euro al mese e in più mi avrebbero pagato anche il 50% del mutuo di casa. Ecco, per farti capire, ecco, io vorrei che gli addetti ai lavori di questa giornata rispondessero a questo, prima risolviamo questi problemi e poi da lì ci sotto. Però Biagio, adesso mi serve anche, tu hai detto una cosa sacrosanta, fate delle politiche di sostegno della famiglia invece di andare in piazza a chiacchierare e tirare gli anatemi come vedo fare il Family Day, una delle cose più ridicole che ho visto, una massa di sacrestani, chierichetti e anziani che vanno lì con le croci in mano a dire il Family Day, la famiglia è un'espressione astratta così rappresentata, ma in realtà Biagio, un esempio, lei ha fatto 5 figli, nonostante che non avesse avuto nulla di tutto questo. È d'accordo con me, se proprio uno vuol fare un figlio lo può fare anche in queste condizioni? Ma d'accordo, no, perché come dicevi tu, lei l'ha fatti comunque. Certo che li ho fatti, perché voglio dire, io non sono stato lì a pensare, lo faccio, ma chissà, io non so manco se vivo fino a domani, quindi se uno va a pensare quello, perché evidentemente i ragazzi di oggi stanno a pensare cosa succederà domani, tra un mese. Però concordo, Biagio, se uno vuol fare un figlio, il figlio lo può fare, e sicuramente certo, avrà meno dal punto di vista dei beni di consumo di quello che vede intorno a lei, ma i figli suoi cresceranno, saranno grandi, affronteranno la vita. Non giudico comunque chi non vuole fare figli, no, non io, giudico, ma ci mancherebbe altro. Io oggi se voglio dare un consiglio al mio unico figlio non autistico, dico non li fai figli, scappa, va via, pensa alla tua vita. Se io dare il consiglio per primo, perché in questo momento siamo in una fase dell'umanità che non bisogna rallentare, almeno sul piano individuale, egoistico, ma essere egoisti molte volte aiuta a vivere meglio. Alessandro. Pronto, buongiorno. Sì. Allora, io non posso festeggiare nel senso della trasmissione domani perché mia moglie è già in dolce attesa. Beh, può farlo con un'altra. Mia moglie non credo che proverebbe. E onestamente mi diverto molto con mia moglie. È un'ipotesi, e mica dico che bisogna sempre scientificamente analizzare tutte le ipotesi. Perché poi dice no, per un motivo etico no. Ma nessuno gli impedisce di fertilizzare ovunque. Ma onestamente credo che questa buffonata, se vogliamo trattarla così, come spreco di denaro pubblico per il Fertility Day, potrebbe essere interpretata, o dovrebbe essere interpretata, come un'attenzione sul fatto che effettivamente facciamo tante cose oggigiorno che non ci permettono poi di avere dei figli in maniera sana quando vorremmo. Io ho 31 anni, questa è la terza gravidanza di mia moglie, e se ci fossimo fatti tutti i problemi, come anche l'ascoltatore precedente, sull'avere figli quando è la situazione idilliaca, probabilmente neanche a 50 anni uno. Allora mi dà ragione. Ma una volta che dici una cosa intelligente, Nicoletti. Sì, le rare volte. Senta Alessandro, poi adesso ti faccio una domanda io un po' più insidiosa. Voi fate figli e condividete il mio pensiero, che è un pensiero puramente laico e totalmente astratto da ogni imperio di tipo etico, religioso, eccetera. Voi però appartenete a qualche gruppo di preghiera, associazione religiosa, siete molto credenti, o lo fate perché laicamente pensate sia giusto? Ma una cosa non esclude l'altra. No, non dica, risponda, non faccia il prete, su. Siamo focolarini, DCL, neocatecumenali, lo dica. Nell'uno, nell'altro, nell'altro. E cosa? Mi spiace, ma non so, frequento la parrocchia, ma non ho nessuna di queste etichette, di questi gagliardetti, mio malgrado, magari. Io le dico una cosa più, Alessandro, uno dovrebbe pensare come lei, anche senza avere un imperativo di tipo etico. Lo faccio perché voglio fare un figlio, non perché penso che sia mio dovere farlo, perché mi piace farlo. Solo un po' più di leggerezza. Rispetto e apprezzo, e sono felice che lei abbia detto che una volta tanto dico una cosa intelligente. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Allora, niente, io non so da dove partire, però devo essere brevissimo. No, ci abbiamo un minutino. Racconto, non lo so, la mia esperienza così di pensiero, nel senso che quando ero piccolino, ho 32 anni, quindi sono giovanissimo, però quando ero piccolino, sui 18 anni, 20 anni, avevo una grandissima voglia di... Perché non l'ha fatti? No, perché comunque... Grazie a Dio poi non potevo farle con quelle che sono state all'epoca le mie fidanzate, però con chi dicevo, No, grazie a Dio ancora non ne ho, dico grazie a Dio, adesso ci arrivo. Dico, subito, avevo una molta voglia di fare figli. Dico, sarebbe bellissimo, invece poi crescendo sempre meno, di solito è il contrario, che uno è piccolino. Vabbè, abbiamo capito, Stefano, gli piaceva giocare con i bambini come i bambini giocano con le bambole, poi crescendo ha visto che la vita libera è meglio e quindi ha preferito non farlo. In bocca al lupo, domani mi fate sapere.